Ad alta voce. Anna Bonaiuto legge La Vergine nel Giardino di Antonia Bayat. Traduzione di Anna Nadotti e Giovanna Iorio Bates. La sera della prima. Qualunque cosa Alexander, riflettendoci, avesse deciso di fare riguardo ai suoi tre visitatori, dovette essere accantonata e cedere, per così dire, il posto alla prima del suo dramma, che ebbe luogo proprio una sera all'inizio di agosto. Ogni volta che nelle settimane precedenti aveva cercato di immaginare la situazione, si era concentrato sul successo o il fallimento dell'opera. Come Stefani vagheggiava un matrimonio in astratto, così Alexander non aveva tenuto conto delle distrazioni della carne, del senso di responsabilità e dei semplici malintesi formali che lo avrebbero tormentato in quell'occasione. Eppure avrebbe dovuto saperlo, lui che all'epoca del loro sordido boschetto a Castle Mount aveva profetizzato a Jennifer con inquietante esattezza che una simile impresa, protraendosi nel tempo, era destinata a trasformarsi in un saturnale. Mentre prendeva posto sul gradino più alto dell'emiciclo di metallo e tavole di legno, pensava con preoccupazione a quanto della sua vita privata stava per diventare di pubblico dominio. Dalla sua segreta passione per la regina vergine, all'ambizione di comporre versi suntuosi, fino ai peccati degli ultimi giorni, peccati di omissione e per commissione. Ora, naturalmente, mentre il pubblico saliva più o meno ordinatamente, facendo scricchiolare la struttura, smise di preoccuparsi degli attori. Bisognava soddisfare, placare, conquistare questa creatura impersonale e composita. Alexander osservava i critici. Giunsero numerosi e visibili alla prima della Strea perché erano venuti in macchina, organizzandosi in piccoli gruppi. Poi Alexander scorse i Potter. Per qualche motivo Bill aveva spedito i biglietti a Daniel e Stefani, informandoli che tutta la famiglia avrebbe assistito allo spettacolo. Alexander, il quale aveva deciso che sarebbe stato intollerabile vedere lo spettacolo stando seduto accanto al regista o alla costumista, era da solo in un angolo. Notò che i Potter stavano salendo verso di lui in fila indiana. Daniel, voluminoso e agile, lo raggiunse per primo. Le assi di legno oscillarono sotto il suo peso. Ultimo a inerpicarsi, Marcos guardò in su, abbassò gli occhi e inciampò, beccandosi un rimbrotto di Bill, che indossava una camicia di flanella senza cravatta. Alexander, come la maggior parte del pubblico, era in abito da sera. «Disturbiamo?» chiese Daniel. «No, no. Forse preferisci star solo. Non che io abbia il potere di far spostare questo drappello. Però potresti sederti e fare da baluardo. Già, farò comunque sedere mia moglie tra noi due, così li tengo lontani da lei». Stefani sedette accanto ad Alexander. Il popelin rosa le tirava sul seno. Era avvolta in uno scialle di seta verde con lunghe frange. Si ostinava a non voler dire a nessuno del bambino, poiché Bill avrebbe fatto fuoco e fiamme, Winifred si sarebbe agitata e tutti, soprattutto Frederica, avrebbero concluso che era stato concepito al di fuori del matrimonio. Era una decisione dura per Daniel, che era ossessivamente incuriosito da ogni minimo cambiamento del corpo di sua moglie e che avrebbe preferito mostrarsi più sollecito. Alexander le si rivolse con affetto. «Stai comoda? Se non mi vengono le vertigini?» «No, non ti verranno quando sarà cominciato lo spettacolo.» «Se ti vengono le vertigini, disse Daniel, ci spostiamo. Forse dovremmo farlo comunque.» «No, sta buono, è tutto a posto.» La musica attaccò. Come un gigantesco stormo di uccelli che si dispone a trascorrere la notte tra gli alberi, il pubblico fu scosso da un fremito, vibrò, si lisciò, si accomodò e infine si assestò sui suoi molteplici trespoli. Stefani era venuta allo spettacolo senza troppe aspettative. Aveva costantemente la nausea adesso. Il mondo sembrava ridotto alla sua biologia. Fu dunque colpita dalla densità e dal vigore del dramma. Non avrebbe potuto esserlo altrettanto se fosse venuta con dei preconcetti o con intenzioni critiche. Stefani non aveva un'indole critica. assistette alla strea con la stessa concentrazione che da bambina dedicava ai vassoi zeppi di oggetti da indovinare, più tardi alla poesia e ora a Daniel. Il dramma suscitò in lei un'impressione che provava di tanto in tanto con alcune opere d'arte felici. L'impressione di trovarsi davanti a qualcosa che riuscisse a realizzare ciò che, secondo le regole estetiche vigenti, avrebbe dovuto essere impossibile. Vide la giovane Elisabetta, tutta bianca e rigida come una statua, assisa fuori dalla porta del tradimento e rifiutare di entrarvi. Vide Elisabetta morente, tutta bianca e rigida come una statua, assisa in camicia da notte su un cuscino e rifiutare di stendervisi. Vide Releg che faceva ruotare superbamente sfere celesti e terrestri durante una luminosa udienza concessa dall'ancor giovane sovrana. E Releg incarcerato nell'epilogo che faceva ruotare le stesse sfere nella torre buia. Vide Catherine Parr che nel frutteto offriva le mele alla giovane Elisabetta, la vergine Astrea che durante il gran ballo di corte offriva mele d'oro al ritratto di Gloriana e infine Robert Cecil che persuadeva l'anziana regina a dare almeno un piccolo morso. Vide la simmetria tra la fanciulla braccia e gambe aperte sull'erba nel calore del sole e la vecchia regina adagiata nell'oscurità dopo l'estrema battaglia, mentre le dame di compagnia le drappeggiano in pieghe marmoree e la camicia. Lo disse ad Alexander con voce torpida e lui se ne compiacque e le illustrò in che modo aveva giocato con i temi di rinascita e rinascimento, con frequenti richiami all'ultimo Shakespeare, sebbene il regista si fosse ispirato alla primavera di Botticelli e Stefani annuì. Sì, l'aveva notato, funzionava. Il linguaggio aveva un peso. La sua voce si smorzò. Alexander le toccò una mano in segno di gratitudine. «Frederica è stata meravigliosa», disse lei. «Penso anch'io. Lo sono stati tutti, ma credo che lei sia stata più all'altezza. Sì, è vero, è stata superba. Il pubblico è in visibilio. Così pare. Vieni dietro le quinte a salutare Federica? Io ci devo andare». Il pubblico applaudiva e pestava ritmicamente i piedi. Alexander scortò Stefani tra quella moltitudine osannante fino al pandemonio dei camerini. Era trascinato da onde sonore e voleva toccare Frederica. Era ossessionato dalle visioni, cosce appena intraviste, polsi delicatamente ossuti. Frederica si stava togliendo il trucco davanti allo specchio. Aveva lo scudo di dolore, lacrime, calore e passione. Alexander la guardò al di sopra delle spalle e fissò i suoi occhi nello specchio. «C'è Stefani, io non posso restare, devo vedere Marina». «Lo so». Continuò a fissarlo senza battere ciglio, il batuffolo di cotone in mano, gli occhi neri scintillanti. «Oddio, Frederica, ci parleremo dopo. Ho degli obblighi da rispettare. Non riesco a concentrarmi». «Certo, mi apposterò nei paraggi. Sono una buona predatrice, lo sai». Stefani si avvicinò. Se quelle correnti di eccitazione sessuale la sfiorarono, non lo diede a vedere. Si avvolse semplicemente nel suo scialle verde. «Sei stata meravigliosa, Frederica. Non mi sono mai fermata a pensare che eri tu». «Questo sì che è un complimento!» Frederica si voltò con malizia verso Alexander. «E tu? Con tutta la mia fatica ti sei fermato a pensare che ero io? Mi hai notata?» «Sotto certi aspetti assolutamente no. Sotto altri, per tutto il tempo». Si chinò a baciarla con ostentata noncuranza. Gli tremavano le ginocchia. «Su, vai a parlare con la vecchia regina. Da me puoi tornare dopo». Frederica si girò di scatto verso Stefani. «Mi ama». «Lo vedo, ti ama certamente». Intrecciò le mani sul ventre ingrossato, sotto le frange verdi, e rifletté. Le due sorelle videro Jennifer seduta sul suo sgabello che si sporgeva per trattenere con urgenza Alexander, il quale si chinò a baciare anche lei con grazia inquieta ed elegante. «Cosa sta succedendo?» chiese Stefani al centro di un campo di cariche e scariche elettriche. «Non puoi rovinare tante vite». «Sì che posso, e intendo farlo. Sostituirebbe fare quello che voglio». «Non puoi. Formalmente sei una bambina. Sai benissimo che non sono una bambina». «Io voglio, voglio, Voglio. Io voglio che tu sia felice. Esistono altri modi di essere felici, oltre a quello di vivere in una casa popolare e preparare litri di tè per delle vecchie beghine. Comunque il punto non è la felicità. Il punto è che è successo davvero, che è vivo e vero. Alcune persone ne saranno ferite. Fatti loro. Potresti esserne ferita anche tu. In tal caso, incasserò. Marcus, intanto, era uscito in terrazza in cerca di Lucas. Lo trovò in piedi accanto al palanchino reale, con respiro affannoso e il sorriso innaturale. Non riusciva a capire perché Lucas fosse venuto fin lì se non per il bisogno, fanatico, patetico, di tenerlo d'occhio. «Signore, si sente bene? Sembrava...» Lucas rispose con irritazione che stava bene, più che bene. Erano semplicemente coinvolti in un grandioso movimento di forze. Avevano un ruolo da giocare. Dovevano sapere con precisione. Dovevano andare nella brughiera quel venerdì. «Non posso, signore. Non posso venire. Ho paura.» «Era naturale che avesse paura», ribatté il cherubino rubizzo con maggiore irritazione, battendo un pugno sui sottili pannelli dorati del palanchino. Non poteva pretendere di liberare forze reali e non avere paura. Sarebbe stato irragionevole. C'erano buone probabilità di essere bruciati dal freddo o dal caldo venerdì, o trasformati in pura energia, non lasciando di sé altro che le ombre, come gli abitanti di Hiroshima dopo l'esplosione. Una prospettiva che sembrava procurargli un piacere estremo. «Abbiamo sempre saputo quello che rischiavamo», aggiunse più ragionevole. «Non è così?» Marcus disse che no, non lo sapeva. E adesso aveva il dubbio che fosse frutto della loro immaginazione. E le trasmissioni di pensiero, la levitazione, i tuoi fotismi, tutto frutto della nostra immaginazione? No, certo che no, ma forse queste cose non erano quello che noi pensiamo. Noi non sappiamo cosa siano. C'è un solo modo per scoprirlo. No, ho paura. Ma sei tu il veggente? Non ne sono sicuro. Non ho il coraggio, mi lasci andare. Non sei disgustato da me? Marcus scoppiò a piangere. Lucas, glaciale, fissò le sue lacrime e ripeté la domanda. No, gliel'ho già detto. Sono spaventato. In tal caso farei meglio tornartene a casa. Da solo fallirò di sicuro, ma non ho alternative. Marcus lo implorò debolmente di lasciar perdere. Lucas rise beffardo. D'accordo, vattene. È troppo tardi per tirarsi indietro, ma sei libero di deludere te stesso. Ciò che ti spaventa è ovunque e farà quel che farà dove vorrà. Marcus, in lacrime e non del tutto sincero, urlò che era soprattutto di Lucas che aveva paura. Di lei, urlò. A quel punto Lucas gli assestò un colpo in pieno viso, tagliandogli un angolo della bocca. Poi gli disse di lasciarlo in pace e corse via. Marcus sedette al lato del palanchino, singhiozzando, passandogli vicino. La gente pensava che fosse ubriaco e lo evitava, lasciandolo solo. Tra le persone che gli passarono accanto di corsa più tardi c'erano Alexander e Frederica. Entrambi erano in fuga. Frederica aveva detto ad Alexander semplicemente che doveva togliersi di lì. A lui era sembrata una buona idea. Così erano corsi via, seguiti dall'eco di qualche esclamazione ironica e risa non dissimulate. Nel buio, sentendola respirare e saltare, Alexander si sentì vicino a lei. Restarono goffamente abbracciati. Lui non poteva rotolarsi con Frederica Potter sotto un cespuglio. Quanto a Frederica, non poteva prendere lei una simile iniziativa. Così rimasero allacciati, già irrigidendosi in pose familiari come bambini che giocano alle statue. Lei cinguettava, ricordando complimenti sfacciati, incidenti di scena, passi falsi. Lui le trasmise il proprio desiderio di silenzio e quasi subito uno sbirito sulle labbra fredde. E adesso cosa facciamo? Nessuna risposta. Forse dovremmo deciderci a dimenticare tutto. Nessuna risposta. Non può venirne niente di buono. Lo voglio. Non sarà facile. Non importa, io ti voglio, voglio te. Ma come possiamo fare? Frederica non lo sapeva. Letto, matrimonio, comunione di anime, un perpetuo protrarsi di quella deliziosa crisi. Lascia semplicemente che questa storia continui. Ti amo. Lo disse con un tale minaccioso imperativo che Alexander si sciolse. In un punto remoto della sua coscienza c'era la consapevolezza che Frederica se la sarebbe vista da sola con ogni conseguenza. Aveva il viso corrucciato, incolore e freddo. Era la dea Cagna nel bosco, una sua creazione o evocazione. Era la ragazza intoccabile, da desiderare senza pericolo perché non la si può avere. Alexander l'afferrò, lei si torse e l'attirò a sé, trascinandolo in abbracci che non appartenevano al suo consueto repertorio. Lei rideva, rideva forte nel giardino, oscena e non indecente, al comando. E lui capì che per quanto protestasse era catturato. La pura curiosità lo spingeva a proseguire. Anna Bonaiuto ha letto La Vergine nel Giardino di Antonia Bayat, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Chiara Valerio e Lorenzo Pavolini, ad alta voce @rai.it.